I giorni scorsi abbiamo avuto notizia di un libro di Pierre Bayard, appena uscito in Francia. Si intitola Chi ha ucciso Roger Ackroyd? E si riferisce ad un altro libro che gli appassionati di letteratura poliziesca conoscono bene. Nel 1926, infatti, Agatha Christie pubblicò L'assassinio di Roger Ackroyd, che in Italia è stato anche tradotto sotto il titolo di Dalle 9 alle 10. L'eroe della vicenda era ovviamente quel detective belga Hercule Poirot, che la Christie aveva inventato 6 anni prima per risolvere gli enigmi del misterioso caso di Style. Era solito, come diceva lui, far funzionare le cellule grigie e in ragione di ciò venire a capo dei più complicati imbrogli. Tuttavia, a quanto dimostra Bayard 72 anni dopo, nel caso dell'assassinio di Roger Ackroyd, Poirot, e prima di Poirot la Christie, che gli dà anima e corpo, si sbagliava. Ripercorrendo passo dopo passo la vicenda e ricostruendo i marchingegni narrativi, Bayard scoprirebbe che l'assassino scoperto sorprendentemente alla fine del giallo è sorprendentemente innocente e che uno dei tanti innocenti di contorno è presumibilmente colpevole. Se Bayard ha ragione, e non si fa molta fatica, conoscendo le debolezze umane, a pensare che ce l'abbia, si tratta di un caso di cattiva letteratura in prima istanza e di cattiva lettura in seconda istanza, perché per 72 anni la cosa è sfuggita a milioni di lettori. A meno che qualcuno non voglia sostenere che, a proposito di romanzi gialli, c'è una sorta di patto implicito fra autore e lettore secondo il quale la trama può anche non stare in piedi. Più o meno come accade al cinema fra regista e spettatore a proposito di molti film che da un po' di tempo in qua vengono categorizzati come di azione, no? Dove è implicito anche che la rapidità dei movimenti e il ritmo degli eventi prevalgano sulla coerenza del pensiero, sia al di qua che al di là dello schermo. Nelle 6 passeggiate nei boschi narrativi, Umberto Eco si sofferma sul caso di D'Artagnan, l'eroe dei 3 moschettieri, che a un certo punto del romanzo, che è ambientato nel 1625, a un certo punto del romanzo D'Artagnan svolta in Rue Servandoni, o Servandoni alla francese, dove abita l'amico Aramis. Il fatterello non sarebbe così innocente come sembra. Perché? Perché l'architetto Niccolò Servandoni, che ha disegnato la facciata di Saint-Sulpice, è nato nel 1695 e quindi nessuna via gli può essere stata intitolata preventivamente. Alexandre Dumas scrisse I 3 moschettieri nel 1844, allorquando la toponomastica parigina annoverava davvero Rue Servandoni o Rue Servandoni, e evidentemente, trovandosela disponibile, non perse tempo lì a considerare il banale fatto che quella via esisteva soltanto dal 1806 e dunque non poteva essere calcata in quanto tale né da D'Artagnan né da Aramis. Anche quando Eco incante l'ornitorinco, su quel suo ultimo volume, quello del 97, asserisce una di fila all'altra che sarebbero rarissime le analisi semantiche di preposizioni e avverbi e che non risulta che alcun studio di semantica abbia dato un'analisi soddisfacente del verbo essere, anche lui incespica in errori e sviste di questo genere, con la semplice differenza che a lui, intellettuale di vaglia e non scrittore popolare, il lettore più difficilmente riconoscerà l'involontarietà. Errori e sviste derivano sempre dalla consistenza di uno schema prestabilito che, in quanto tale, impedisce di cogliere ciò che nello schema non si inserisce bene. Chi racconta una storia, sia essa romanzata o passi per scientifica, presuppone sempre un'economia della narrazione che è più inconsapevolmente che consapevolmente agisce da filtro nei confronti di ciò che nella storia può entrarci o può non entrarci. Alain Delon. Alain Delon, il noto attore cinematografico, quello che secondo la cantante Mina sarebbe stato così bello da fermare il traffico. E qui permettetemi la parentesi, perché qui si capisce che Mina abita in Svizzera, perché se fosse più dalle nostre parti si renderebbe conto che il traffico è comunque fermo a prescindere dalla presenza o meno di Alain Delon. Comunque Alain Delon agli errori e alle sviste delle narrazioni ha voluto pensare per tempo. Saputo che gli sarebbe stata dedicata una biografia, invece di gongolarsi nell'immortalità a portata di mano, ha fatto causa preventiva al potenziale autore e all'ancor più potenziale editore. Nei confronti del racconto della propria vita, Delon si è posto il problema di precostituirne il quadro indiziario affinché l'interpretazione altrui viaggiasse su binari accettabili per lui e per i suoi cari. Risolvendo drasticamente ogni dubbio epistemologico, si deve essere detto che lui, finché può, è il solo legittimo osservatore e al contempo osservato di se stesso. Il tribunale francese, dopo lunghe riflessioni, gli ha dato torto. E nella biografia che sarà scritta, la sua opposizione alla medesima non potrà che apparire sospetta. E qui Poirot non sbaglierebbe, perché è il caso di un colpevole che si costruisce da solo un indizio a carico. Il futuro effettivamente terrorizza. Alain Delon per certi versi avrebbe davvero di che preoccuparsi. Steve McKean e Totò sono morti da un pezzo, ma il primo oggi guida con passione solo automobili Ford, il secondo invita a scommettere al tuttocalcio, alla faccia loro. Ridotti a pure icone mercantili come Che Guevara, Marx e Freud, fra accendini, gadget e telefoni cellulari. E Alain Delon si potrebbe trovare a dirigere il traffico con tutte le difficoltà causate dalla sua nota bellezza. I vecchi iconoclasti hanno perso la loro lunga battaglia più o meno dall'VIII secolo, ai tempi di Papa Leone III, e non sono riusciti ad evitare che si facesse arte e scempio delle immagini delle divinità. I nuovi iconoclasti avranno un gran bel da fare, e per molto, ma molto di meno.